sera, solita atmosfera. C'è papà che sclera, mamma si dispera. Sempre liti a ora di cena. Provo rabbia, scendo, aprendo la portiera. Salgo sulla macchina, non ho una vera meta. Parto e metto musica per non sentire quelle voci nella testa che non vogliono più uscire. Solo lei mi può capire, questa musica che passa per la radio nella cassa, ma sento che non mi basta. C'è una voce che mi grida: dove vai? Ti affanni per una risposta che non troverai. Forse fuggi dai tuoi guai, da qualcuno che ti insegue. Nella vita le battaglie non concedono mai tregue. Cosa resterà di questa notte in fondo? Certe vanno così forte che le vivi in un secondo. Vorrei un momento per guardarmi dentro intanto, solo sulla vetta mentre la città sta riposando. Chiudi gli occhi, dimmi cosa vedi. Ascolta il silenzio, cosa senti. Accarezza l'aria, dimmi cosa ti ha lasciato tra le mani. Quanto è duro essere esseri umani. Alla ricerca della giusta rotta. Tra mille domande cerco una risposta. Quanto mi costa anche stavolta. Verso una meta che seguo senza sosta. Se non credi in te stesso, nessuno crederà in te. Anche quando resti al buio, in realtà una luce c'è. Solo nascosta dai problemi e dalla paranoia. Passi sempre dal dolore per trovar la gioia. Ma devi fare le scelte, niente scuse, niente scuse. Datti una mossa, dai. Se crescere vuol dire abbandonare i propri sogni, non lo farò mai, non lo farò mai. Invece a realizzarli voglio provarci senza scoraggiarmi. Sai, può darsi che qualcosa cambi. Anche se non so dove andrò, non torno indietro. Conta che ci sono e ci sarò, io non arretro. Il letto chiama, la mia mente non risponde. Vuol stare qui e lasciare tutto ciò che mi confonde. La luna mi bacia, la mia guancia arrossisce. Mi sento solo, innanzi a un vuoto che mi intimorisce. Chiudi gli occhi, dimmi cosa vedi. Ascolta il silenzio, cosa senti. Accarezza l'aria, dimmi cosa ti ha lasciato tra le mani. Quanto è duro essere esseri umani. Alla ricerca della giusta rotta. Tra mille domande cerco una risposta. Quanto mi costa anche stavolta. Verso una meta che seguo senza sosta. Quando non ci stai più dentro ti ritrovi a uscire. Anche solo dagli schemi e non è facile capire se siamo destinati ad essere cacciatori o prede. Se possediamo o ciò che abbiamo ci possiede. Continua, smetti, parti o resta, lotta, arrenditi. Domandati o risponditi, stai insieme o lasciati. Fidati o no, credici o no, io non lo so. So che però te lo domandi già da un po'. Se davvero stai vivendo o ti stai lasciando vivere. Se la vita è triste perché non la fai sorridere. Se l'ossessione di essere qualcuno ti ha distrutto. Sei già qualcuno e per qualcuno sei tutto. Perché la vita non è una competizione. E se lo fosse è difficile che mica migliore. In me c'è una tempesta intorno alla tranquillità. Ma nel tormento sento che ho un momento di lucidità. Chiudi gli occhi, dimmi cosa vedi. Ascolta il silenzio, cosa senti. Accarezza l'aria, dimmi cosa ti ha lasciato tra le mani. Quanto è duro essere esseri umani. Alla ricerca della giusta rotta. Tra mille domande cerco una risposta. Quanto mi costa anche stavolta. Verso una meta che seguo senza sosta.